cadere, amarsi e distruggersi, a morsi e catene, e voglia di perdersi e di arrampicare, pensieri più alti del sole, ma che si va presto a dire pace, si va presto a dire croce, si va presto a dire amore.